Uncas, mio figlio. Di lui di essere paziente e da me una rapida morte, perché loro sono tutti là, meno uno. Io, Chingachgook, l'ultimo dei Moicani. Di lui di essere paziente e da me una rapida morte.